La politica alla prova. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. Forze politiche di maggioranza ed opposizione alle prese con il difficile avvio della legislatura tra formazione degli organi parlamentari e possibile nuova stagione delle riforme. Partiamo allora dal nodo delle commissioni parlamentari. Per Copasir e Vigilanza Rai si aspetta ancora commissioni queste che vorrebbe il Movimento 5 Stelle. Si è risolta invece la vicenda della Commissione Giustizia del Senato. È stato eletto presidente Francesco Nitto Palma del Popolo della Libertà, 8 però le schede bianche del Partito Democratico. Altro capitolo, quello delle riforme. Notizia di questa mattina: il passo indietro di Berlusconi sulla cosiddetta convenzione. Il Cavaliere parla di tempo perso, meglio agire con gli strumenti già previsti dalla Costituzione, dice Berlusconi. Sentiamo. Tutto, secondo me, tempo perso. Perché? Perché una convenzione che non è prevista dalla nostra Costituzione richiederebbe dei tempi di approvazione che non farebbero altro che allungare il percorso per il cambiamento. E allora io credo che il cambiamento debba essere portato avanti, come dice la Costituzione all'articolo 138, dal Parlamento stesso, che deve fare due voti, e i due voti dovrebbero essere, se non si vuole che ci possa essere un referendum da parte del pubblico con una maggioranza di almeno 2/3, in modo tale che si possa arrivare nel tempo più breve possibile a un cambiamento vero, come oggi è urgente avere. Quanto al mio desiderio di guidare la convenzione, ha detto ancora l'ex premier, stavo scherzando. Queste dunque le parole di Berlusconi. Convenzione sì, convenzione no, è sufficiente secondo voi quanto già previsto dalla Costituzione per le riforme? 349-238-6666, gli sms per i vostri commenti. Un commento autorevole a quanto detto da Berlusconi sulla convenzione per le riforme arriva sempre dal Popolo della Libertà. Ascoltiamo Antonio Leone. Io ritengo che la posizione di Berlusconi sia un po' legata alla emotività rispetto al fuoco di fila che c'è stato su di lui nel momento in cui ha detto, che lo abbia detto scherzando, non l'abbia detto in maniera seria, non lo so come l'ha detto, ha detto che voleva fare il presidente della convenzione. C'è stato praticamente una mitragliatrice che ha falciato questa idea di Berlusconi, e penso che sia questo il legame tra il prima volerla la convenzione e poi non volerla. Però ritengo che una riflessione seria vada fatta sulla utilità della convenzione, perché se poi si deve trasformare in uno strumento, così come è successo qualche anno addietro, che poi va a finire nel cestino delle immondizie, mi sembra che sia meglio usare gli strumenti parlamentari per tentare di fare le riforme. E sempre al Leone del Popolo della Libertà abbiamo poi chiesto un commento sulle frizioni che ci sono state ieri tra PD e PDL per la formazione delle commissioni. Abbiamo sentito poco fa delle 8 schede bianche del Partito Democratico per la votazione di Nitto Palma alla Commissione Giustizia. Allora ascoltiamo il pensiero di Leone su questo tema. Non è una strana alleanza, è un'alleanza. Strana perché non è un'alleanza politica, è un'alleanza di programma, un'alleanza di governo legata a un momento contingente, insomma è un'alleanza, punto e basta. È chiaro che in un'alleanza diciamo così composita non si possono creare nuove formazioni politiche, si possono creare formazioni finalizzate alla produzione di una serie di provvedimenti che possono servire all'Italia per venire fuori da questa crisi che ci sta ormai attanagliando. Quello che sta accadendo, qualche incidente di percorso, è quasi ovvio e scontato che possa esserci. L'unica consapevolezza che adesso ci vuole, da una parte e dall'altra, bisogna dire, il PDL lo ha fatto sino ad ora, se si fanno accordi bisogna mantenerli, altrimenti prima si devono mettere fuori tutta una serie di argomentazioni per dire questo sì e questo no. però che le cose valgano da entrambe le parti. Il PDL, a quel che mi risulta, non ha mai messo veti su nessuno, tanto è vero che sono stati eletti negli uffici di presidenza delle commissioni gente che aveva le stesse caratteristiche, per non dire altro, rispetto a qualcuno dei nostri a cui è stato messo il veto. Per cui bisogna mettere da parte in toto i veti, oppure se i veti ci debbono essere, che vengano rispettati da una parte o dall'altra. Quando si fa un accordo bisogna mantenerlo. I patti vanno rispettati, dice dunque Antonio Leone del PDL, ma oggi è anche il giorno del Partito Democratico. Alle 18 si riunirà il coordinamento in vista dell'Assemblea Nazionale di sabato, che dovrà indicare un nuovo segretario, comunque un reggente che traghetti il partito verso il congresso in autunno. Notizia di pochi minuti fa, prenderebbe corpo l'ipotesi di un anticipo del congresso prima dell'estate. In questo caso rimarrebbe segretario Pierluigi Bersani, nonostante le dimissioni, e una sorta di prorogatio per accompagnare il percorso quindi verso un eventuale congresso del PD che potrebbe esserci a questo punto prima dell'estate. Un partito che resta e si presenta comunque spaccato, secondo il parlamentare prodiano Sandro Gozzi. Sentiamo. Con sollievo e preoccupazione aspetto l'appuntamento dell'Assemblea Nazionale, perché sinora il Partito Democratico, che non c'è più nel modo in cui l'abbiamo concepito, perché si è suicidato in Parlamento durante l'elezione del Presidente della Repubblica, ma quello che ne rimane ha già cominciato a fare il congresso all'interno delle istituzioni. L'abbiamo visto nell'elezione del Presidente della Repubblica, l'abbiamo visto nell'assegnazione dei sottosegretari, lo abbiamo visto in maniera quasi geografica per quanto riguarda la ripartizione delle correnti nelle presidenze della Commissione. Diciamo che siamo andati sempre più in basso. Luci e ombre erano nel governo, e tra l'altro è stato uno dei motivi, quello del rinnovamento, che mi aveva spinto a dare la fiducia al governo Letta. Ombre e luci per quanto riguarda i sottosegretari, moltissime ombre per quanto riguarda i presidenti delle commissioni. Il PDL ci ha messo del suo, portando avanti delle persone che appartengono a un ciclo politico che dovrebbe finire, del passato, però il PD ha continuato a celebrare il suo congresso. Adesso finalmente arriviamo all'appuntamento dell'Assemblea Nazionale, e ci arriviamo tutti contro tutti. Per questo che io credo che sia fondamentale che si indichi una figura di segretario che gestisca la transizione, che dia garanzia a tutti, e la principale garanzia a tutti è un segretario che lavora per il partito e non per se stesso. C'è un segretario che non lavora per una sua eventuale candidatura al congresso, ma che sia chiaro che è a servizio di tutto il Partito Democratico. È evidente che questo vuol dire lavorare molto attorno a un nome. Chi tenta un rilancio è intanto l'Italia dei Valori. Il vecchio partito, come lo abbiamo conosciuto, è stato bocciato dagli elettori, spiega Felice Belisario, che insieme a Orlando vuole un rinnovamento della forza politica. Ascoltiamo allora Belisario. Quel ciclo oggi è finito. Non lo decide Belisario, non lo decide nessun altro, lo decide il popolo italiano, lo ha già deciso il popolo italiano. E allora noi dobbiamo provare a preservare un patrimonio di idee, di proposte, di progettualità, che non erano soltanto un patrimonio nostro da condividere in un recinto, ma che è di altri, un patrimonio comune. La politica alla prova termina qui. Un saluto da Vincenzo Miglietta.